Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. E così siamo arrivati anche alla fine di luglio e anche alla fine del nostro sabato del villaggio. Poi ci prendiamo una pausa estiva, poi torneremo in qualche modo a settembre. Ci saranno un sacco di novità, ma insomma saremo sempre insieme e saremo sempre insieme il sabato pomeriggio qui su Radio 24. Ma intanto il sabato del villaggio è sempre il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana. Per questa settimana, due ore insieme, uno speciale appunto per l'ultimo appuntamento della stagione. Iniziamo parlando di serie TV. We need Margo Taft. I need a percentage. You put me out of business. I'm making a movie. With whose money? Please find another business. There is no other business. E questa è una delle ultime arrivate, una di quelle serie di cui stanno parlando tutti. Per sapere di cosa si tratta abbiamo uno degli amici del Sabato del Villaggio, uno dei nostri esperti preferiti di serie TV. Lui scrive in un sacco di post interessanti, soprattutto vabbè, insomma, sulla stampa, ma per andare a vedere tutto quello che scrive basta andare su Twitter. Lui è Gianmaria Tammaro. Ciao Gianmaria. Ciao Marta. E nota come ogni volta io non do il tuo account di Twitter, ma dico di cercarti per nome e cognome. Vabbè, chiocciola Gian con la ilunga trattino basso 91, che è facilissimo da dire. Gianmaria, cos'è questa serie di cui abbiamo sentito un breve estratto? Allora, è The Last Tycoon, che è la nuova serie di Prime Video, che è la sezione di serie TV e di produzioni audiovisive di Amazon. È uscita ieri in tutto il mondo in contemporanea. Il protagonista è Matt Bomer, che conosciamo già non solo per White Collar, che è quest'altra serie in cui è stato protagonista, ma anche per le sue varie partecipazioni in film che hanno raccolto successo globale, soprattutto tra le donne. Sì. Ed è questa serie è tratta dall'omonimo romanzo di Fitzgerald, che racconta la storia di questo produttore scapestrato cinematografico. Siamo nella prima metà del Novecento, intorno agli anni 30, sulla fine degli anni 30, e Matt Bomer è il protagonista di questa serie e interpreta proprio questo cineasta che ha diverse, diciamo così, sfide da affrontare. Nel cast, per me è interessante da segnalare, perché ultimamente è ovunque, è Lily Collins, che abbiamo visto ultimamente anche in Okja, che è il film che ha fatto tanto discutere di Netflix a Cannes, ed è anche protagonista di un bellissimo film sempre di Netflix che si chiama To the Bone, che racconta la storia di questa ragazza affetta da anoressia. E proprio su Prime Video questa è una delle novità più attese, è uscita ieri come ti dicevo, e poi ce ne sono tante altre sempre su Prime Video. Per esempio c'è The Tick, che è la prima serie su un supereroe tratta da un fumetto, all'omonimo fumetto, che uscirà il 25 agosto, sempre su Prime Video. Ma questa è solo una delle, diciamo così, novità seriali di questa estate caldissima sotto questo punto di vista. Allora, visto che abbiamo parlato di un partito, parliamo dell'altro, cioè di Netflix. Netflix, diciamo che è il partito che sull'estate, ce lo dice per esempio il successo dell'anno scorso di Stranger Things, inatteso da Netflix stessa ma anche dal pubblico, è stata una sorpresa, un fulmine a ciel sereno. Ci punta davvero tanto su questo periodo la piattaforma di Reed Hastings, e ci sono tante novità a partire da Daughters of Destiny, che è uscita ieri il 28 luglio, ed è una serie documentaria, uno dei generi su cui Netflix sta più investendo. Racconta la storia di queste cinque ragazzine che sono cinque ragazzine di cinque famiglie indiane, e della loro vita, della loro crescita nel loro liceo, nella loro scuola. Un'altra uscita interessante che sarà su fine mese di agosto è Defenders, che è il crossover tanto atteso dei vari supereroi di Netflix e Marvel. 8 puntate, ci saranno Daredevil, ci sarà Jessica Jones, ci sarà Luke Cage e Iron Fist, che abbiamo già visto nelle loro serie. Il 25 agosto invece, sempre su Netflix, ci sarà The Mist, la nebbia, che è tratta dal dall'omonimo libro di Stephen King, che in questi tempi tra It, di cui è stato rilasciato pochi giorni fa il trailer, e La Torre Nera, che è il primo adattamento attesissimo della serie scritta proprio da King, si sta facendo di nuovo rivedere tanto tra cinema, tra grande schermo e piccolo schermo. Io devo dirti, ti confesso che ultimamente su Netflix guardo moltissimi show comici, cioè a me piace moltissimo la stand-up comedy, da grande voglio fare la stand-up comedian, no, mi piacciono davvero tanto questi monologhi comici e vedo che ci sta puntando molto Netflix, non so se anche a te appassionano, ma io ci sto perdendo veramente un sacco di tempo. Allora, serie TV però, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, è il grandissimo momento del Trono di Spade, non possiamo farci niente, insomma, alla fine non è possibile scindere quest'estate per gli appassionati di serie TV dal ritorno del Trono di Spade. Sì, io in realtà proprio pochi giorni fa ero a Giffoni, quindi ho incontrato anche Kit Harington nella listeria di massa per il fenomeno Trono di Spade. Delirio? Nel senso, sì, assolutamente sì, ragazzi di tutte le età, ragazzi e ragazze che davanti al nuovo re del nord sono letteralmente impazziti. C'è tutta un'intenzione da parte di HBO e su questo si ricollega secondo me anche al ragionamento di Netflix, del fatto che l'estate è il momento per eccellenza del tempo libero, quindi tutti vogliono stare a casa se possono o andare al mare, però visto che adesso ci sono i device, smartphone, iPad, si possono recuperare tranquillamente anche in spiaggia, e il Trono di Spade è sicuramente una delle serie evento di quest'anno più attese. Sono slittate per problemi, diciamo così, legati alla produzione, però sicuramente da qui alle prossime settimane sarà sempre l'argomento cardine tra domenica e lunedì della messa in onda. E poi c'è Twin Peaks che è ancora in corso. Ovviamente i veri appassionati di David Lynch sono fedeli. Oh, sì. E c'è Filippo Aureggi in regia che sorride, lui sta andando avanti. Invece quelli come me, che erano più che altro curiosi ma non erano dei veri cultori, un po' l'hanno abbandonata, Diciamo che l'effetto David Lynch e il ritorno di Twin Peaks ha funzionato probabilmente per i primi due episodi, i primi quattro episodi, poi come dicevi anche tu si è di nuovo ridotto a quello zoccolo duro di appassionati che lo seguono qualunque cosa lui faccia. Per Showtime resta, che è il network americano che lo manda in onda, resta comunque un gran successo, un gran titolo, perché poi insomma ha riaperto a tanti scenari, a tante proposte su una televisione che è molto più cinema d'autore che fiction televisiva. Per quanto riguarda gli appassionati, era un attesissimo ritorno e ci sono tante chicche che insomma si fanno apprezzare da chi ama Lynch, ma anche da chi ama un certo tipo di audiovisivo che è totalmente avvolgente e sconvolgente nel caso proprio di David Lynch. Filippo mi ha scritto su un cartello impegnativo, effettivamente, insomma, impegnativo. Allora, ultima cosa, Gianmaria, annunciato questa settimana questo Chernobyl, Sky e HBO. Io personalmente ho sorriso, amaro, ma ho sorriso perché io sono tornata da poco tempo proprio da Chernobyl, perché ci sono stata in maggio e quindi ho detto accidenti, senza volerlo, ero, come dicono i giornalisti, sul pezzo, cioè ero veramente sulla notizia. Nuova partnership ancora una volta, Sky HBO è la prima coproduzione di questa partnership internazionale, fantastico. Si rinsalda, diciamo, il rapporto che c'è tra la televisione molto europea, europeista, e quella che è HBO, che è la televisione per eccellenza d'autore americana. È un rapporto che, diciamo, è iniziato grazie agli italiani, con The Young Pope di Paolo Sorrentino, che è stata la prima serie internazionale sotto questo punto di vista di Sky Italia, con sia HBO che Canal Plus. È un rapporto secondo me molto interessante il fatto che la stessa HBO dimostri sempre maggiore interesse verso quelli che sono i prodotti non solo nord europei, quindi inglesi, scandinavi, eccetera, eccetera, ma anche verso i prodotti italiani. Penso che sia un sintomo interessante di come anche qui la televisione stia cambiando e il racconto televisivo stia cambiando. Non dimentichiamoci che HBO lavorerà anche con la Rai per l'adattamento televisivo dell'Amica Geniale. Beh, anche questa è una cosa che ci incuriosisce molto, ma già ci stiamo portando sulla prossima stagione televisiva. Abbiamo scoperto un po' di cose belle da vedere adesso in estate, quello che aspettiamo per i prossimi mesi. Grazie a Gianmaria Tamaro per essere stato con noi. Gianmaria, ci ritroveremo poi quando ritorneremo insieme nella prossima stagione, se vorrai essere sempre insieme con noi il sabato pomeriggio. Grazie a Gianmaria Tamaro, a presto! Grazie Marta, buona estate. Ciao. Grazie a te, noi ci troviamo tra pochissimo, Traffico, e poi saremo ancora insieme per parlare di musica. Dimentica i compromessi, scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta Il sabato del villaggio. E dunque al sabato del villaggio è il momento di parlare di musica. Facciamo un passetto indietro. Che meraviglia! Le bollicine sono state un grandissimo momento di un favoloso concerto che abbiamo vissuto quest'estate. Chi non l'ha vissuto non sa cosa si è perso, è stato bellissimo. E apriamo così una pagina dedicata appunto ai grandi live, quelli che abbiamo visto, ma quelli che potremo vedere ancora quest'estate. Lo facciamo con una carissima amica del sabato del villaggio, chiocciola Chiara di Giamba 1. Chiara di Giambattista, ciao Chiara! Eccoci, ciao Marta, ciao a tutti. Mi piace, autrice televisiva ma anche no, critico musicale ma anche no, insomma fate voi. Io dico amica del sabato del villaggio, che così va bene comunque. Va benissimo, tanto amica del sabato del villaggio anche della mia adorata Marta. Esatto, allora, esatto, allora Chiara. Ma tu mi hai preso così sul cuore a questo punto, mi hai messo Vasco e io, come hai detto tu giustamente, chi non c'è stato forse non si rende conto di cosa è successo lì a Modena Park. Effettivamente è stata una cosa pazzesca. Io ti devo dire che dopo quasi un mese non mi sono ancora ripresa, c'ho ancora il bidone. Vero. È una roba ancora da capire, perché è entrata talmente sotto pelle, è stato talmente un evento incredibile, lui è stato talmente trascinante, grandissimo rocker, è stato meraviglioso. Ma lui è stato uno, secondo me, delle cose bellissime di quest'estate, perché anche Tiziano Ferro ha fatto dei concerti pazzeschi negli stadi. Io sono stata a vederlo qui a Roma ed è stato straordinario, sempre Tiziano, trascinante, un vero showman, è diventato bravissimo, sempre più bravo, sempre più travolgente, pezzi incredibili, suonati da Dio, un palco incredibile, quindi tutto molto bello. E poi io ti devo dire che anche se qualcuno lo ha criticato anche per la lunghezza dello show, ho amato molto Robbie Williams. Devo dire che Robbie Williams ha un po' diviso però, Ha un po' diviso, io l'ho visto qualche settimana fa, vero? E mi sono divertita come una pazza, perché lui è il solito guascone, eccezionale, divertente. Capisco che la durata del concerto è stata un po' così, un po' risicata, se vogliamo dire. Ne avremmo goduto di almeno un'altra mezz'ora in più volendo, però lui è stato talmente tanto bravo, divertente e simpatico, e comunque c'ha dei pezzi che alla fine è venuto giù lo stadio, quindi io lo promuovo assolutamente a pieni voti. Robbie Williams è grandioso. Però tra quelli che sono ancora in giro, che cosa ti è piaciuto? Ce ne sono tanti, quindi cercherò di essere, insomma, di fare una scelta un po' difficile. Allora, intanto io consiglierei, sono rimaste ancora un po' di date di Mannarino, anche lui visto in concerto, io l'ho visto qui a Roma, mandatelo a vedere, perché Alessandro è stato uno veramente di quelli che vengono insomma, ormai la parola indie è un po' onnicomprensiva, però lui veramente è stato uno di quelli che ha iniziato più che in sordina, dai locali minuscoli e senza passare neanche spesso per la televisione, anzi pochissimo. È stato uno di quelli che adesso riempie i palazzetti, riempie gli stadi, con un pubblico bellissimo, affezionato, caldo, e questo ultimo disco che lui ha fatto è veramente molto bello e dal vivo rende veramente tanto, è una grande, grandissima festa, quindi andatelo a vedere. Poi Ermal Meta, anche artista a cui noi vogliamo molto bene, anche lui ha una serie di date che al momento sono fino ad ottobre, ma secondo me ormai non si ferma più, cioè è partito con questo tour infinito e non si fermerà, cioè, più. Stanno facendo gara lui e Gabbani, chi fa più date. Lui e Gabbani, sì, ma per rimanere sul podio del festival, io ti dico che anche Fiorella è un'altra che in questi ultimi tre mesi non ha avuto un attimo di respiro e continua anche lei a parecchie date, andatevele a cercare in giro per l'Italia, e farà quella conclusiva per l'Italia almeno, perché poi farà anche qualche qualche data europea molto bella, Londra, Parigi, andrà al Bataclan, che sarà credo un momento molto emozionante a novembre, però a Verona sarà domenica 17 settembre per fare questo grandissimo concerto all'Arena di Verona per concludere questa grande tournée che celebrava questo suo successo al Festival di Sanremo, che è stato veramente un momento bello che a me è rimasto molto nel cuore. Un altro che sta facendo una celebrazione ed è partito come suo stile, un po' in punta di piedi, in maniera molto sobria, è Niccolò Fabi, perché ha iniziato questo tour che si chiama Diventi in 20, che poi sembra diventi, diventare, evoca la parola diventare, che celebra questo suo ventennale, e anche questo insomma ha molte date in giro, ma si concluderà con una sorta di grandissima festa il 26 novembre al Palalottomatic a Roma, tornerà a casa quindi a festeggiare questa grande data per questo suo festival. Festival, vedi, perché ero già pronta, perché tu a dire... mi vuoi citare dei festival, lo sento, appunto, la sua era una festa, ma ci sono anche tanti festival, beh, estate, quindi insomma un po' di occasioni per sentire della buona musica. A volte ci lamentiamo, non ce ne sono più, invece no, ci sono ancora dei festival. No, ce ne sono tanti e sono bellissimi, e ad agosto ancora ci sono molte date. Innanzitutto io ti vorrei citare Risorgi Marche, che è che bello, meravigliosa, di sì, sì, ne avevamo parlato nel nostro spazio con il Touring Club, proprio con lui. Le zone purtroppo colpite dal terremoto, concerti meravigliosi. Concerti meravigliosi, ne sono rimasti ancora un po', ne sono rimasti una manciata, ma una manciata di nomi pazzeschi, perché dunque il 30 luglio ci sarà appunto Fiorella Mannoia con Luca Barbarossa, il 31 Bruno Arisas, il 2 agosto Max Gazzè e il 3 agosto Francesco De Gregori con Forme New Quartet, quindi insomma sono rimasti quattro nomi eccezionali in dei posti bellissimi per dare una mano a queste popolazioni che ne hanno veramente bisogno. È un'iniziativa meravigliosa, io devo dire che Neri Marco Re ha avuto questa idea bellissima, un grande applauso. Vero. E un abbraccio a questa grande idea che lui ha avuto. C'è ancora il festival a Roma, a Villa Ada, io l'altra sera sono stata a vedere Motta, ma insomma ci sono altri nomi, quindi andate a curiosare, andate a vedere. Ripartirà invece il nostro amico Ligabue il 4 settembre, perché lui ha avuto insomma un po' di vicissitudini che l'hanno costretto ad interrompere questa sua tournée lunghissima per questo suo disco Made in Italy. Poi ha fatto il film, quindi altro certo. Stop lavorativo. Mm-hmm. Ma il 4 settembre riparte appunto da Rimini, dal 105 Stadium, il suo tour. Nel frattempo ha detto che durante questa tournée che riprende comincerà a mandare in giro qualche stralcio di questo suo nuovo film che ha girato sempre con Stefano Accorsi, che è un suo attore molto amato, e quindi ci darà qualche anticipazione. Sono molto curiosa anche perché quando uscì il disco ricordo che una delle prime domande che gli facemmo fu: ma questo è già un film? E secondo me lui ce l'aveva già in mente, perché era proprio già un film. Sì, ce l'aveva già in testa, quindi sono molto curiosa anch'io, insomma, anche perché in passato ha sempre dato dimostrazione di essere molto bravo anche nella narrazione cinematografica, Ligabue, quindi sicuramente mi aspetto un bellissimo film. Per tornare ai nostri festival, io ti direi che c'è anche un nei paraggi insomma di Roma e nel Lazio, c'è cioè questo Vulci Music Fest, che è un festival che si svolge nel parco naturalistico archeologico di Vulci a Montalto Zastro, e praticamente inizierà il 2 agosto e sono poche date, dal 2 al 13 agosto, ma i nomi sono grandi, perché c'è il 2 agosto si apre con Antonello Venditti, poi ci sarà Bruno Risas, ci sarà pure Ermal Meta, Fabrizio Moro, Stato Sociale, ma il 5 agosto ci sarà una data molto bella, molto particolare, dedicata ai bambini della Siria, sarà Every Child is My Child, Live for Syria, e ci sono già molti artisti che hanno dato la loro adesione, tra Daniele Silvestri, Emma Diodato, Irene Grandi, e la cosa meravigliosa è che tutto l'incasso sarà devoluto completamente a questo progetto, che è la costruzione di una scuola sul confine turco-siriano per i bambini rifugiati della Siria. Quindi, sono contenta che tu abbia citato Diodato, che è nel mio cuore, proprio che io cuore. Adoro, l'ho visto sabato scorso, anzi venerdì scorso, a Rosolina Mare a una Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, l'ho adorato, e domattina dopo il giornale radio delle 8 è protagonista del nostro 140 caratteri, perché veramente io sono impazzita per lui, tanto bravo. Beh, ma gli vogliamo molto bene in effetti. Tornando ai nostri festival, c'è un altro festival molto bello che si svolge in Sicilia, io sono stata da poco in Sicilia e ho un amore smodato per questa regione eccezionale eccezionale, di, piena di colori, di profumi, di suoni e di sapori, e ci sarà questo festival pazzesco dal 4 al 10 agosto che si svolgerà un po' in, in vari posti, tra il Golfo di Patti, il Teatro di Tindari, insomma, e si chiama Indigeno Fest. È un festival che è arrivato, insomma, ha già fatto alcune edizioni e sempre con grandi nomi e con grandissimo successo. La cosa bella è che questo festival cerca di andare a scavare anche sulle radici della terra, cerca di scoprire luoghi, porta gli artisti nei luoghi belli. Infatti non ci sono, c'è solo un posto dove gli artisti suonano, ma ce ne sono parecchi per andare a scoprire proprio le bellezze della Sicilia. Che meraviglia! E ci sono tantissimi artisti quest'anno: Carmen Consoli, Bruno Risas, Ex Otago, Renzo Rubino, Marian Mirage, Busta DJ. I nomi ce ne sono pazzeschi e tantissimi, quindi io vi direi andatevi a dare un'occhiata, perché è un festival organizzato bene e che va a cercare proprio il cuore della Sicilia. Dopodiché proviamo a uscire un attimo dall'Italia, perché siamo tutti pronti dal 9 al 15 agosto, perché arriva il Siget Festival, che è quello che si svolge sull'isola di Obuda o Buda, lo sai che non so mai. Non ci sono mai state, ogni anno dico una volta, però ci devo andare. Sì. Anch'io tutte le volte dico ci andrò e poi tutte le volte rimango sempre fregata e non ci vado, ma quest'anno sarebbe un anno veramente in cui bisognerebbe andarci, perché ci sono i Kasabian, Chainsmokers, Macklemore, Major Lazer, Pink, Wiz Khalifa, PJ Harvey, cioè te ne sto citando così a caso, e questa è soltanto una parte della lineup ufficiale, quindi io direi che, insomma, se non sapete ancora dove andare in vacanza, io un giretto dalle parti di Budapest sinceramente me lo farei. Sì, poi deve essere anche un posto bellissimo, quindi... No, ma ho visto delle foto, è un posto bellissimo, tra l'altro come sempre devo dire che i festival sono ultimamente, negli ultimi anni, sono organizzati in maniera come se fosse una grande festa, ed è forse il vero come dire, significato dei festival. E diciamo che non si farà, non sarà assolutamente da meno, perché in Italia ne avremo uno che andrà dal 30 agosto al 3 settembre, l'On Festival di Treviso, che avrà un po' lo stesso genere di proprio questo tipo di organizzazione. Non sarà soltanto un posto dove vedere i concerti, ma sarà un momento, un posto dove poter condividere emozioni, musica, stare insieme. E la lineup anche qui è pazzesca, io ti dico soltanto alcuni nomi: Duran Duran, Liam Gallagher, London Grammar, The Wailers, Bloody Beetroots, tra gli italiani J-Ax and Fedez, Mannarino, Marra e Gay, gli After Hours, Samuel, insomma una roba pazzesca. Ci sono 8 palchi, in totale saranno circa 160 show tra live, DJ set, workshop, insomma ci sarà da vedere e da ascoltare, quindi fino insomma a settembre ne abbiamo. E poi forse la data che conclude tutto è i Rolling Stones a Lucca il 23 settembre, che saranno un po' la ciliegina sulla torta di questa estate caldissima, dove veramente abbiamo visto e ascoltato della musica incredibile. Grazie a Chiara Di Giambattista, @ Chiara Di Giamba 1, seguitela su Twitter. Un abbraccio Chiara, presto, un bacione, ciao Marta, ciao a tutti. Noi ci ritroviamo tra pochissimo. Il sabato del villaggio. E torniamo insieme con questo sabato del villaggio speciale per augurarci le buone vacanze. È l'ultimo sabato di luglio, è l'ultimo sabato del villaggio prima della pausa estiva, e poi ci ritroveremo a settembre con un sacco di novità. Allora, per ritrovare tutti gli amici del sabato del villaggio, ma anche per avere i consigli più preziosi in fatto di tecnologia, abbiamo in studio con noi Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buongiorno, questa ciao. Questa volta non sei collegato dall'area 51 o da luoghi misteriosi, ma sei qua vicino a me in studio. Che bello. Qui, al fresco dei nostri studi. Io quindi... sono tra un poco metto sciarpa e cappello perché fa freddissimo. Sì, ma va benissimo. Io non sono uno sponsor delle vacanze in questi periodi. Questi tu le periodi... hai già fatte? Un po' sì. Sì, ma poche. Poi in autunno si fanno le vacanze. In questo periodo sono belle le città che si stanno svuotando, così uno può parcheggiare intanto dove vuole. Mm-hmm. Nei mezzi pubblici c'è meno gente in giro, tutto è aperto, perché ormai sì, ormai questo, sì. Sì, questo mito, insomma, delle città vuote durante non è nemmeno più così, cioè non sono nemmeno più vuote, però sicuramente c'è più spazio. Anche se ogni tanto a me viene nostalgia di quelle estati degli anni 80 in cui non si trovava dove far la spesa, che esatto. Tutto era chiuso, se non partivi era tutto chiuso. Poi adesso devo dire che con gli smartphone e con internet si trova tutto. perché verissimo, qualche cosa che c'è aperto. E se non c'è aperto niente te lo portano a casa ormai. Ah sì sì, devo dire che nelle città, ecco, questo è un po' un digital divide tra la provincia e le città. Ah, guarda, basta poco, perché io abito veramente a 12 chilometri da Milano. E cambia il mondo. È già il mondo, sì. Sì, devo dire che però da questo punto di vista le città, soprattutto le grandi città nel mondo, sono cambiate molto, grazie fondamentalmente agli smartphone. Vero. Con i quali noi facciamo tante cose on demand, cioè abbiamo bisogno di un'informazione su Wikipedia, andiamo su Wikipedia e la leggiamo, oppure cerchiamo tante altre cose, e oggi si possono, dalle automobili in condivisione, dalle biciclette, perché do un annuncio, ne abbiamo parlato, 2024, questa è una cosa che io non vedo l'ora che arrivi, perché arriveranno anche in Italia, c'è un boom pazzesco in Cina, mentre in Italia ancora avevamo il bike sharing, le biciclette in condivisione alla vecchia maniera, cioè dovevi andare alla stazione dove ci sono le biciclette, cioè gli stalli dove ci sono le biciclette. Enrico Pagliarini, un grande fan. Sì sì, mi piace tantissimo, non tanto la bicicletta in sé, ma questo marchingegno che per cui tu apri la bicicletta, sblocchi la bicicletta con lo smartphone, è bello, e geolocalizzi la bicicletta con la, quindi detto proprio in estremissima sintesi, poi se volete a 2024 ne abbiamo parlato, quindi nel super podcast, esattamente, tu geolocalizzi le biciclette, ce ne saranno, allora, questi servizi partono a Firenze e a Milano nel giro di alcune settimane, comunque entro il mese di agosto, un po' prima a Firenze, un po' dopo a Milano. Ci saranno, pensa, 4.000 biciclette, ma sono poche, nel senso che ne verranno messe ancora di più. Tu la geolocalizzi, vedi dove sta la bicicletta sullo smartphone, sulla mappa dell'applicazione, puoi prenotare la bicicletta così nessuno te la prende, la prenoti, arrivi, magari è a 5 minuti a piedi, mm-hmm, ti vai a prendere la bicicletta e la sblocchi con lo smartphone. Sì. Tu la prendi così come si fa con le automobili. E una cosa che, visto che esiste questo digital divide, cioè che nelle province questi servizi non ci sono ancora, ma per un problema di densità abitativa, cioè non si sostengono economicamente, certo, almeno per adesso, io una cosa che invito a fare è: venite nelle città non solo per andare a vedere magari un bel museo, una ma bella per trovare... mostra, e certo, uno si iscrive e dice voglio andare a Milano e faccio una prova del bike sharing, free floating si dice, ma così. Ma secondo te, visto che stiamo cazzeggiando, arriveranno anche in provincia? Dunque, arriveranno sicuramente in città medie, quindi non solo nelle grandi città. Se intendiamo per provincia le città, cioè i paesi oppure le cittadine, penso che sarà un po' difficile, sì, sì, però chi lo sa. Ad esempio, io mi chiedo appunto, abitando nell'Interland, secondo me prima o poi il raggio potrebbe allargarsi. Sì, sono delle discussioni in atto anche con i comuni limitrofi alle grandi città, ovviamente se un comune è vicino a una grande città è avvantaggiato, certo, anche per motivi logistici, no? Perché poi queste biciclette, se si spostano tutte, perché mica puoi ordinare alle persone di fare certo tutte le direzioni, allora se si spostano tutte in un'area, poi ci sono dei furgoni che girano e le spostano in un'altra area, cioè vanno riposizionate, così come succede per le automobili, perché le automobili del car sharing, e devo dire che questo non è un fenomeno di costume di cui raccontiamo, è veramente un fenomeno incredibile. Ci sono migliaia di automobili e in Italia ci sono alcune città, Roma e Milano ovviamente sono le città principali, ma anche Torino, Firenze, Catania sono città, Firenze l'ho citata, sono città dove esiste il car sharing che tu puoi prenotare con l'applicazione dallo smartphone. E anche in questo caso ci sono delle squadre di persone che poi devono riposizionare, secondo degli algoritmi che queste società hanno, le macchine in mezzo alla città. Fantastico. Perché sennò si trovano magari delle tutte in periferia zone la sera. Esatto, tutte. Esatto. Sì, sì, sì. Enrico, dai, però bellissimo, qualche consiglio per le vacanze per bello chi volesse farle, insomma, sono tanti. Dunque, allora, alcune cose da fare, ma anche alcune cose da non fare. Ok. Allora, innanzitutto il consiglio generale è anche quello: se uno va in vacanza, considerando che ci sono studi che ci dicono che una persona media guarda lo smartphone, alcuni studi dicono 50 volte al giorno, altri ci dicono 80, altri anche di più. Io sicuramente di più. Sì, sì, io di più. Ecco, secondo me la vacanza può essere anche un buon momento per staccare le mani dallo smartphone, proprio metterlo da un'altra parte, mm-hmm, e quindi rilassarsi un po' di più. Io, guarda, le mie vacanze partono come sempre in un posto in cui non è arrivato il roaming europeo, perché vado in Svizzera, sì, e quindi lo userò un po' meno. Esatto, non c'è, infatti attenzione, perché se passate dalla Svizzera o andate in Svizzera non lasciate acceso il roaming, perché sennò vi drena. Ah, una cosa che vorrei dire, approfitto perché hai citato la parola roaming, se andate in nave, nave, attenzione, lo dico perché lo avevamo detto anche nel 2024 quando abbiamo parlato di roaming, sulle navi, anche le navi che fanno tratte nazionali, quindi quelle che collegano ad esempio il continente con la Sardegna. Sì. Allora, sulle navi, non in tutte, ma in alcune navi, ci sono delle reti di telefonia mobile che entrano in azione quando la nave è lontana dalla costa e quindi il cellulare non riesce più ad agganciare le reti che sono sulla terra ferma. Si agganciano alla cella che c'è sulla nave, ma quella cella va, poi si connette via satellite e non è compresa nel roaming europeo. Quindi attenzione, se voi credete di essere in Italia quando passate dal continente alla Sardegna o viceversa, non è così. Cioè, può capitare che se voi lasciate... Ma lo sappiamo se siamo usciti? Purtroppo... No, allora, arriva un SMS. Arriva un SMS che ti dice: caro utente, da questo momento c'è questa nuova rete. Il problema è che molto spesso le navi fanno tratte notturne. Quindi tu arrivi sulla nave, fai le tue belle cose con lo smartphone, magari dormi, ti arriva l'SMS mentre dormi che ti dice: guarda che da questo momento ti agganci a questo servizio, che ti offriamo un buon servizio, ma ha delle tariffe folli. Quindi, se non è strettamente necessario, spegnete il roaming o spegnete addirittura il telefonino, perché può capitare che, non essendo in roaming e non essendo nemmeno nel roaming europeo, insomma, alla mattina arriviamo che abbiamo, se abbiamo l'abbonamento ce ne accorgiamo quando controlliamo, certo, l'abbonamento. Se abbiamo il piano ricaricabile magari arriviamo che abbiamo zero. E scaricatevi i super podcast di 2024, esatto, nel quale Enrico Pagliarini ha parlato di roaming. Sì, perché... ce n'è uno di qualche settimana fa in cui abbiamo parlato di roaming. Fondamentale. Però... Dunque, allora, cose da non fare. Mettere poche fotografie sui social network, su Facebook o altri social network, ma soprattutto selezionare attentamente queste fotografie. Cioè, mettiamo solo le fotografie che non dicono tanto di quello che stiamo facendo. C'è gente che va in vacanza solo per mettere le foto sui social network. Non è una buonissima abitudine, a meno che noi, prima di fare tutto ciò, o comunque siamo sicuri che queste fotografie vadano in mani sicure, cioè che nel giro dei nostri amici che sono connessi su Facebook o sugli altri social network ci siano effettivamente solo dei nostri amici. Cioè, però non se è detto... noi diciamo che non siamo in casa, che siamo al mare, potrebbe succederci come al cacciatore John Terry, al quale hanno svaligiato la casa perché lui ha postato le foto in vacanza e gli hanno rubato pare 450.000 euro in beni. Quindi potrebbero rubare 450. Quello forse... A casa mia fanno molta fatica anche a rubare ne 1.000, però... Però diciamo che... Però sanno, probabilmente di questi personaggi famosi si sa bene anche l'indirizzo, perché chi vuole saperlo sa dove stanno queste villone. Non è una buona abitudine, perché? Perché poi succede spesso che uno non necessariamente abbia un ladro tra gli amici di Facebook, no? Però poi con la condivisione, con il passaparola, queste informazioni girano, circolano, quindi... Non esageriamo nel dare informazioni. Oppure è un po' ladri che hanno sotto mano alcune, sott'occhio alcune villone, controllano. Sicuramente, esatto. Però è vero che uno magari ha accettato l'amicizia di persone di cui magari non si ricorda nemmeno più. Ah, certo. E quindi poi ripeto, non necessariamente quella persona è pericolosa, ma... questa persona magari segnala o condivide questa fotografia, dalle fotografie si capiscono tantissime cose. Io ti confesso che posto molte foto delle mie fotografie, molte foto delle mie vacanze, spesso però in giorni diversi, cioè magari posto le foto quando sono già tornata. Ecco, questo ad esempio è una buona... Però attenzione, perché uno dalle fotografie, se sono ad esempio ricorrenti, capisce le abitudini. Cioè, ah, in questi giorni c'è stato un video molto condiviso di Matteo Fiora. Matteo Flora. Che ho fatto sentire, ovviamente siamo alla radio, mica posso farlo vedere. Che ha spiegato come si possono, ad esempio, riconoscere i movimenti di un bambino per un malintenzionato per le tracce che lasciamo. Sì, infatti, diciamo che tutto quello che abbiamo detto fino adesso dovremmo filtrarlo ancora di più se ci sono di mezzo dei bambini. Certo, quindi io certo. Devo dire che non trovo molto intelligente mettere foto di bambini su Facebook o comunque in generale sui social network, anche perché queste foto possono essere prese e chissà che quale utilizzo possano per quale utilizzo possano essere poi rigirate su internet. Quindi tratteniamoci, perché capisco certo. che poi uno ha desiderio di mettere foto, ma anche le informazioni, non scrivete tante cose. E poi insomma, una delle cose che abbiamo detto in altre occasioni è quella di andare a vedere quali sono le impostazioni di privacy, certo. cioè chi può vedere cosa, che è molto d'accordo. Importante. Ultimo consiglio, Enrico. Allora, ultimo consiglio, due. Uno è, anche se siamo in vacanza e anche se dovremmo utilizzare un po' meno il telefonino, comunque sia controlliamo i conti correnti, si sa mai, sì? e soprattutto i conti delle carte di credito. Certo. Non perché succeda qua, però diamo una controllatina anche tutti i giorni, tanto con le applicazioni è proprio una cosa, così come si guardano le previsioni del tempo, uno va a vedere come sta il proprio conto corrente e laddove possibile utilizzate il denaro digitale e cercate di tenere sempre pochi soldi. Io quando vedo portafogli con 50 euro, 100 euro, cioè moltiplicati per vari. Ah no, pensavo 50 euro, beh 50 rarissimo, euro rarissimo posso arrivare che, a avere 50 euro, rarissimo, io non uso mai contanti. Rarissimo che abbia 50 euro. No, io a 50 euro posso arrivare. Se mi servono sì, però ci sono i bancomat sì, magari, sì, sì, però sì. Per molto tempo no. Io uso tantissimo denaro digitale in tutti i modi possibili. E per evitare che ti freghino poi, perché se uno va in vacanza, magari va in certi posti, è rilassato, oppure abbiamo questo abbigliamento un po' meno stringente, e cioè non è che abbiamo il giubbotto con la cerniera tutto chiuso, ecco, in estate è molto più facile. Quanti racconti abbiamo sentito di amici che dicono ah sono andato del tal posto e mi hanno fregato i portafogli. Quanti. Ecco, se tu hai i soldi nello smartphone è molto più complicato. Io ho un ultimo consiglio tecnologico che è quello molto di più complicato che te lo freghi, certo. È molto più semplice puoi utilizzarlo. Ho un ultimo consiglio tecnologico che è quello di scaricare il super podcast di 2024, perché negli spostamenti quando non prende la radio, che magari è perfetto, esatto, sei all'estero sì, sì. Non hai ti scarichi il podcast di 2024 e... questa mi sembra una buona idea. Va bene? Ti piace come consiglio tecnologico? Esatto, sì. Grazie Enrico. Grazie Pagliarini. Noi ci ritroviamo tra poco. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta il sabato del villaggio. E parliamo un po' anche di viaggi in questo sabato, che è l'ultimo prima della nostra pausa estiva, e quindi ci divertiamo un po' a sognare le vacanze. Allora, io ho un mito assoluto in fatto di viaggi, perché secondo me le cose che fa lui in televisione sono inimitabili. Vabbè, ascoltiamo un brevissimo, brevissimo estratto. Dalla costa tirrenica calabrese un saluto cordialissimo da Osvaldo Bevilacqua, buone vacanze, una serena estate a tutti. E siamo su questa costa, in particolare nella provincia di Cosenza, perché abbiamo saputo che a Belvedere Marittimo si svolge ogni giorno un rito molto particolare. Non si tratta di un avvenimento sportivo o di un evento istituzionale, ma di qualcosa che il signor Palmino si è inventato e tutti i giorni accade a mezzogiorno. A mezzogiorno. Sigla. Allora, io l'ho tagliato, non ho detto cosa succede, perché così andate a recuperare la puntata di Sereno Variabile, perché come me l'ho recuperata su RaiPlay, lo fate anche voi, non vi ho svelato il mistero, ma così avete capito che abbiamo in linea il conduttore, l'autore, l'ideatore della trasmissione che è stata inserita nel Guinness World Records come il programma TV di viaggi di tutti i tempi di più lunga durata del mondo, condotto ininterrottamente dallo stesso giornalista. E quindi buongiorno e benvenuto al Sabato del Villaggio a Re Osvaldo Bevilacqua, buongiorno. Grazie, questa corona pesa. Pesa, no, vabbè, è veramente qualcosa di straordinario. Sì, gli ascoltatori di Radio 24, una radio, devo dire, perché è molto particolare. Beh, insomma, una radio parliamo smart, tanto, molto smart. Ah, che meraviglia! Interessantissimo. Il rapporto con l'Agorà è bello, è veramente bello. Che meraviglia. Poi il palinsesto, ho già visto il vostro palinsesto prossimo. Sì. Io non ho ancora svelato cosa farò, perché sto ancora. No, di mio siamo ancora rifinendo qualcosa. Però, siccome ogni tanto ricevo dei messaggi, ma come? No, noi sempre qua stiamo. Noi siamo delle certezze. Il sabato pomeriggio siamo una certezza ormai. Mai come Osvaldo Bevilacqua, al quale poi tra poco devo fare un po' di domande su un libro che io ho qua tra le mani. Ma Osvaldo, davvero questa cosa del Guinness dei primati io non la sapevo, è pazzesca. Quella dunque è stata assegnata dal Guinness World Records per i 36 anni. Ora a novembre entreremo nei 40. Però vabbè, già mi hanno detto da Londra che secondo loro questo secolo è imbattibile, questo record. Sì. Perché sì, c'è sì. La BBC che con la loro trasmissione sui viaggi hanno raggiunto 32 anni, però con 7 conduttori. Non vale. Siamo contenti, ma questo è un record. Non solo allora, innanzitutto è il record del pubblico, perché lo sai meglio di me, il record te lo può assegnare solo il pubblico. È un record del nostro paese, non solo della RAI. Questo mi fa ancora più piacere e mi inorgoglisce ulteriormente. C'è una cosa molto bella che hai scritto in questo libro, del quale do subito il titolo, che è Antiche strade d'Italia in cammino tra borghi, sapori e tradizioni, e già questo ci fa capire di cosa voglio chiederti. Ma a me ha molto emozionato la dedica, perché sì, tu hai scritto... Anche a me, devo dire anche a me, l'ho fatto con un lacrimuccio. Questo libro è dedicato con tutto il cuore a quanti, per varie ragioni, non possono viaggiare. Chissà quanta gente ha visto l'Italia e ha visto tanti paesi... Grazie ai tuoi racconti. Io è da tanto che mi occupo delle persone con disabilità. Sono stato colpito qualche anno fa da una presidentessa della Lombardia o del Piemonte, adesso non mi ricordo, perché l'ho incontrata alla fiera del libro, al Salone del Libro, e mi ha detto: noi siamo grati a Sereno Variabile perché ci fa vedere tanti posti, eccetera, eccetera. Però non sempre ci dice se per noi sono accessibili. Mi ha molto colpito, ho detto: avete ragione. E da allora io sono molto meticoloso e molto attento a dire: questo è un posto bellissimo, ecco, purtroppo qui ancora non c'è accesso alle persone con disabilità. Vuol dire che ancora nel tuo mestiere qualcosa ti entusiasma, ti emoziona, ti commuove, non è poco, eh? Tutto mi entusiasma e tutto mi commuove, perché la cosa più bella è la gente, le persone, la stima, l'affetto, anche qualcuno che ti fa una critica che io me la segno, me la appunto e la metto in atto. Osvaldo, Antiche strade d'Italia. Io è un sacco di tempo che così ho questa tentazione di mettermi in cammino. Non ho ancora osato, però adesso che ho cominciato a leggere il tuo libro capisco che si può fare. Infatti io comincio dicendo: mettiamoci in cammino. Ecco, la Via Francigena, la Via del Sale e la Rotta dei Fenici, qualcosa di veramente affascinante, sono dei luoghi d'Italia che conosciamo pochissimo. Devo dire di sì, per esempio ecco i Fenici, adesso questa della Rotta dei Fenici è stata approvata e ha gli stessi vantaggi, titoli dal Consiglio d'Europa, come c'è dal Cammino di Santiago, quindi la Rotta dei Fenici è entrata nei cammini e ci fa piacere, perché i protagonisti poi sono le isole, le nostre isole, cioè la Sardegna, la Sicilia e la Sardegna. E per la Sardegna anche un'altra, l'isola Sant'Antioco, che è la quarta isola dopo Sicilia, Sardegna ed Elba, dove c'è questo cimitero, questo Tofet, che si trova lì a Sant'Antioco, che è qualcosa di spettacolare. Poi loro sono stati bravissimi al museo, hanno ricostruito con dei ragazzi delle scuole elementari e medie, bello, perché hanno ricostruito alcune scene dei fenici. È tutta la nostra ricchezza che a volte dimentichiamo, è la nostra cultura che è fatta veramente di tante cose che grazie ai viaggi possiamo scoprire. È veramente qualcosa di meraviglioso, Osvaldo. Ma ti faccio una domanda, visto che hai fatto un'affermazione nella tua introduzione. Allora, ci si prepara anche a un viaggio come un esame, il biglietto, le prenotazioni, la valigia, i documenti, i saluti. Secondo te il viaggio deve essere estremamente preparato? Bisogna lasciare qualcosa all'improvvisazione? Perché tu dici, se cediamo all'ansia di sapere di vedere tutto, che ti confesso la mia di ansia, non vedremo niente. Cioè dobbiamo sempre tenere qualcosa di imprevisto? Brava. Allora, l'imprevisto di regola I maiuscola è proprio il carburante del viaggio. Quando arrivo nei luoghi, e tutti sanno, ma tu arrivi, ci fai lavorare tanto, facciamo le scalette alla redazione e tu ce le sconvolgi. Perché magari guardo in faccia qualcuno e dico, ma questo mi può raccontare tante cose. È difficile che sbagli, E infatti ti raccontano tutto. E devi, oggi è cambiato, oggi si viaggia con più consapevolezza. Siamo sempre più verso turisti di professione, turisti europei, sempre, non per carità, ancora c'è tempo, però ci avviamo. Una volta si partiva, neanche se si consultava una guida, si andava in un posto, si vedevano cose straordinarie e uniche al mondo, si ripartiva. Dopo qualche giorno qualcuno leggeva un giornale, vedeva un documentario e diceva, oh, ma io qui ci sono stato, porca miseria, ma era così importante, mannaggia. Quindi non se l'è goduto, no? È vero. Adesso c'è più consapevolezza del viaggio, si va, in un certo senso ci si prepara, ma stai tranquillo che il 40% è assolutamente tutto da scoprire. Io vado, tutti mi dicono, tu conosci l'Italia centimetro per centimetro, magari, ci vorrebbero 7 vite. Io torno nei posti dove sono stato 5 anni fa, ma ci sono sempre tante sorprese. Quindi lasciatevi assolutamente lo spazio. E sappiate che ormai anche gli scienziati della medicina hanno accertato, quindi è garantito che il viaggio, la vacanza, ma anche un semplice viaggio che si può fare girando l'angolo dove abitiamo noi, Vero. Cioè, da scoprire qualcosa, mette in moto, stimola i neuroni. E questo fa bene alla salute, produce endorfine, benessere, fa veramente bene. Quando qualcuno mi chiede, sono depresso o sono depressa, sto male, voglio andarmene in un'isola deserta, io li guardo e dico, vuoi tocca sana? Bene, vai in un posto come Rimini. Ma che sei pazzo? No, non sono pazzo, dovete andare a parlare con la gente, anziani, bambini, parlate con loro, fatevi una 4 chiacchiere, scoprirete un mondo anche dietro l'angolo di casa. E poi anche secondo me questa cosa di camminare potrebbe fare davvero bene. Assolutamente. Di mettersi in cammino, come hai detto. Sono d'accordo con te. Io faccio, lo fanno tutti, 10 chilometri al giorno, a costo di alzarmi alle 5 del mattino, li devo fare sempre perché altrimenti non sto bene. A passo veloce, passerete 1.30-2 senza neanche accorgervene. Avete capito come si tiene in forma il giovanissimo Osvaldo Bevilacqua? Io ho preso nota. Mangio peperoncini. E quindi torniamo all'inizio, torniamo alla Calabria, che meraviglia. Io sono davvero contentissima di aver avuto la fortuna, posso dire la fortuna, di aver parlato con il grandissimo, il re dei viaggi, Osvaldo Bevilacqua. Noi tra poco parleremo ancora di viaggi, parleremo con la nostra Annarita D'Ambrosio, ma voglio ricordare Antiche strade d'Italia, in cammino tra borghi, sapori e tradizioni. Mettiamoci in cammino perché lo abbiamo sentito, fa benissimo. Grazie a Osvaldo Bevilacqua, presto! Grazie veramente a te, sei stata gentilissima, un grande abbraccio, buona estate. Non mi piace dire buone vacanze, difficilmente lo dico, o le abbino insieme, buona estate e buone vacanze, perché purtroppo c'è chi non le può fare. È vero, è vero. Allora pensiamo davvero, come ha scritto Osvaldo Bevilacqua, a quanti per varie ragioni non possono viaggiare, lo fanno anche attraverso la TV, lo fanno anche attraverso la radio. Ancora grazie Osvaldo Bevilacqua, a presto. Grande abbraccio, ciao. Noi ci ritroviamo tra poco, Giornale Radio, poi saremo ancora insieme. Oggi abbiamo deciso di parlare di bolle, le bolle, quei corsi di borsa, dei mercati prendono il volo, ci sono quotazioni mostruose, bellissime, entusiasmanti, e poi tutto d'un tratto, pam, puff, e arriva la fregatura. Insomma, fregatura. È un po' un serpente corallo, diciamo la verità. Direi che è proprio crudele come fine. Dietro la bolla spesso c'è una balla, con licenza parlando. Perché sennò non crescerebbero così tanto i corsi borsistici. Magari c'è un eccesso di valutazione del titolo. Quello. All'inizio, quando viene attribuito un prezzo da un advisor. Il serpente corallo di Stefano Elli, Marco Loconte e Mauro Meazza. Ogni sabato alle 9 su Radio 24. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Il segnale orario vi è offerto da... Il mio piatto migliore. Quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Il sabato del villaggio. E ci ritroviamo insieme con la seconda ora di questo speciale sabato del villaggio. È l'ultimo sabato di luglio e anche l'ultimo sabato prima della pausa estiva. Poi ci ritroveremo con un sacco di novità ancora a settembre, sempre con me, Marta Cagnola. Nel frattempo comunque potete seguirmi sempre con i miei social network, @ Marta Cagnola, sia in Twitter che in Instagram. Insomma, tutto quello che succederà quest'estate ne potremo parlare insieme sui nostri social network. Il sabato del villaggio, come sempre, è il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali. Cominciamo questa seconda ora parlando di cinema, perché è stato svelato il programma della Mostra di Venezia dal 30 agosto al 9 settembre e noi ne parliamo con il direttore della mostra, Alberto Barbera. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto io non vedo l'ora a questo punto, eh? Sono felice perché, insomma, abbiamo lavorato un anno per questo risultato, quindi... Allora, mi sembra un cartellone pieno di grandi nomi, grandi film e delle grandi sorprese, una bella prospettiva per il cinema italiano. Di cosa è più orgoglioso in tutto questo, Alberto Barbera? Esattamente, di essere riuscito a mettere insieme un programma in larga misura imprevedibile, che riflette la varietà estrema del cinema di oggi. Non soltanto geograficamente diverso, ma diverso dal punto di vista moderno, la ricerca, la sperimentazione, il cinema d'autore, eccetera, eccetera. Del fatto che questa mostra avrà un sacco di sorprese inaspettate, e quindi non posso neanche svelarla perché sennò la sorpresa viene meno. E poi l'ultima cosa, del fatto che è una mostra che, più che essere, come dire, banalmente o semplicemente la fotografia del presente, è una mostra che ci impegna, ci invita a traguardare il futuro, cioè a cercare di capire quali saranno gli attori di domani, quale direzione prenderà il cinema, cosa sta succedendo in questo grande cambiamento che è la rivoluzione dell'industria culturale di oggi, eccetera. Un bel poker di italiani in concorso, tanti italiani in orizzonti, italiani anche nei vari eventi, nelle varie sezioni. Cosa dice del nostro cinema questa scelta di Venezia? Dice una cosa diversa dal passato. Io mi sono spesso lamentato della scarsa qualità dei prodotti nazionali, dicendo che era un errore aumentare la quantità senza far premio sulla qualità. Quest'anno invece abbiamo visto moltissimi film interessanti che indicano due cose: che siamo di fronte a finalmente a un tanto auspicato ricambio generazionale, perché ci sono moltissimi autori esordienti o al secondo o terzo film che hanno grande talento e soprattutto che stanno sperimentando cose inedite, escono dalle gabbie in cui il cinema italiano è rimasto chiuso fino ad oggi, cioè la commedia o la commedia di costume e che ne so, il cinema d'autore, autoreferenziale. Qui invece si sperimentano modelli narrativi e spettacolari che non appartengono alla nostra tradizione, con una volontà di misurarsi con un mercato internazionale e globale che è il segno di un grande coraggio, di una grande vitalità di cui da tempo il cinema italiano non dava invece segni, ecco. Al di là dei Virzì, fa un film in America con due grandi star che sono Donald Sutherland e Helen Mirren, o di Susanna Nicchiarelli che gira un film in inglese con un cast europeo sugli ultimi anni di vita di Nico, la cantante di Velvet Underground. al di là di loro, ripeto, che sono evidentemente film pensati per il mercato internazionale, anche gli altri, quelli che raccontano storie italiane, radicate nel nostro contesto sociale, ambientale, eccetera, in realtà lo fanno in modo diverso dal passato. E questo, ripeto, è una qualcosa di estremamente incoraggiante per la nostra cinematografia. Un tempo si diceva i film da festival, intendendo i film un po' noiosi, nei quali non succedeva niente, magari lunghi, in lingue misteriose, da guardare rigorosamente coi sottotitoli, magari piccoli e facendo fatica. Invece qua ci sono western, il musical dei sì. Manetti Bros, e poi più di una volta hai detto in conferenza stampa: ah, questo non è adatto per il pubblico impressionabile, questo solo... Insomma, si va a pescare anche nei generi? Ma assolutamente sì, nel senso che il cinema è sempre stato fatto di generi, oggi si vanno di moda le commissioni tra i generi, poi invece c'è qualcuno che fa, no, cinema di genere, che fa, non so, ci sono due giovani registi che debuttano con una crime story, due registi belgi che debuttano con una crime story che si chiama Tueur, cioè Assassini. 80 minuti mozzafiato di invenzioni, sorprese continue, con la storia di una banda di rapinatori al loro ultimo colpo, sorprendente per due registi esordienti. Oppure, che ne so, questo dramma carcerario violentissimo di Craig Zeiler, che è un autore di culto americano che è diventato famoso un paio d'anni fa con uno zombie western che pochi hanno visto, ma quelli che hanno visto lo hanno segnalato come un'opera interessantissima. E loro hanno fatto questo film violentissimo, di estrema violenza, violenza grafica, di genere, ma che comunque può disturbare. Per questo che ho detto, insomma, chi è sensibile alla violenza si astenga dalla visione. A Cannes c'erano state molte polemiche per i film in concorso di Netflix. A Venezia comunque Netflix c'è, immagino sarà attesissimo l'esordio di Suburra, che sarà in cinema nel Giardino. Sì, ci sono tre produzioni di Netflix. Una è la prima produzione italiana, la nuova serie di Suburra, che presenteremo, di cui presenteremo i primi due episodi. Poi c'è invece una miniserie americana diretta da un grandissimo documentarista americano che è Errol Morris, che tra l'altro è concorso a Venezia 3 anni fa con un suo film, ed è la ricostruzione di un caso di cronaca nera e politica americana degli anni 50. 6 episodi di 45 minuti l'uno, estremamente affascinanti, perché Errol Morris è un documentarista, come dire, creativo, davvero fuori, davvero sorprendente. E poi la terza produzione di Netflix è il film con Robert Redford e Jane Fonda, Le nostre anime di notte, che è anche l'occasione per cui daremo il giorno d'oro alla carriera a questi due grandissime star che hanno segnato tutto il cinema e la cultura americana del secondo Novecento. Tratto da un romanzo postumo di Kent Aruff che ha lo stesso titolo. Io ho sempre detto di non avere nessuna preclusione nei confronti di Netflix o di Amazon o di questi nuovi soggetti che operano nella produzione e nella distribuzione contemporanea, perché insomma non si può sbarrare la strada al futuro dicendo che il cinema è soltanto quello classico destinato alle sale e circuiti tradizionali, insomma. Hai citato Jane Fonda e Robert Redford, non mancano le star. Anche qui, quando non ci sono le star, si sente inevitabilmente aria di crisi, anche se ci sono dei bei film. Invece quest'anno mi pare che gli appassionati di red carpet ne avranno ogni giorno. Ma ogni giorno più di una, sarà un tappeto rosso affollatissimo. Ho fatto un primo elenco di soltanto di attori e attrici famosissimi, per non citare i registi di grande richiamo, eccetera. Il primo elenco ha 25-26 nomi di star di calibro veramente internazionale, da Matt Damon a Julianne Moore, da Jennifer Lawrence a Javier Bardem, da Penelope Cruz a Frances McDormand, da Judi Dench ai già citati Sutherland e Helen Mirren, insomma. Ce ne sono tantissimi ogni giorno, e quindi, come dire, anche l'aspetto glamour, che insomma tante volte evocato nel bene e nel male, quest'anno sarà una presenza forte a Venezia. Eh sì, alla fine nei festival ci vuole anche quello. Certo. Ultima domanda, noi arriveremo al Lido alla fine di agosto, sì. Ma cosa ci troviamo? Perché abbiamo trovato anni con la voragine, anni col buco, anni con la rete, con... però insomma quest'anno però, invece come mi devo preparare? Cosa troviamo? Allora trovate un'enorme piazza che unisce il Palazzo del Cinema al Casinò ai nuovi giardini dove sorge la nuova sala cinematografica, il Cubo Rosso che c'era lo scorso anno, un'enorme piazza unica tutta di marmo bianco, un po' abbagliante devo dire sotto il sole cocente d'agosto, ma una bellissima piazza di marmo, una passerella permanente non più temporanea di legno eccetera, e un giardino rimpolpato rinfoltito di alberi, di pini, insomma un rinnovamento, come dire, di facciata non di poco conto, l'ultimo atto del quale sarà l'anno prossimo il restauro completo del Palazzo del Casinò, dove verrà creata anche una nuova sala cinematografica al terzo piano. Lo dico sempre agli ascoltatori, è un'esperienza che davvero vale la pena fare, almeno una volta nella vita, la Mostra del Cinema di Venezia. Anche solo andare a vedere Red Carpet, ma non è inaccessibile, non è impossibile, anzi è molto bello procurarsi dei biglietti per andare a vedere le proiezioni, perché si respira veramente l'aria del vero cinema. E io non vedo l'ora che inizi. Grazie al direttore Alberto Barbera, grazie mille. Grazie, grazie. Dimentica i compromessi, scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta Il Sabato del Villaggio. E al Sabato del Villaggio è il momento di aprire la pagina dei libri. Pagina dei libri, fa sempre ridere dire così. Io, per introdurre questo appuntamento dei libri e per fare anche un po' felice Filippo Aureggi in regia, ho scelto questa. Questa era una canzone fantastica. Chi la cantava? Chi la cantava? Ciao Alessandra Tedesco. Io ti risponderei Duran Duran, ma non è che era una cover. Fochino. Lo no, sapevo, era una. No, musica. No, c'eravamo quasi. Era un gruppo che si chiamava, insomma, c'erano dei membri di Duran Duran, si chiamava Arcadia, il progetto Arcadia. Oddio, cosa mi hai ricordato? Gli Arcadia. No, perché io so che uno dei libri, lo vedo lì, uno dei libri di cui mi vuoi parlare è questo Residenza Arcadia. Allora, scherzi a parte, abbiamo deciso di trovare dei consigli mirati. Sì. Quindi ho delle categorie e tu mi spieghi qual è il consiglio giusto per i nostri ascoltatori se devono mettere dei libri in valigia. Ogni categoria di lettore avrà il Poggio suo libro. Cuffia. Quanti secondi ho per ogni libro? Qualcuno. Allora, questo Residenza Arcadia per chi è? Con questo invertiamo l'ordine, ti chiedo per chi è questo Residenza Arcadia? Per chi ama i fumetti, perché questa è una graphic novel, è stata scritta da Daniel Queglio, è scritto quello, ma lui è argentino di nascita. Avevamo già incontrato sui telefilm. Che memoria che hai. Io giuro, non ho detto niente prima a Marta. Aveva fatto i famosi manuali sulle serie TV. Sì. Invece questa è la sua prima graphic novel, Residenza Arcadia, pubblicata da Bao Publishing. Allora, si racconta la vita di alcuni anziani in un condominio di una grande città. Ci sono incomprensioni, antipatie incrociate, però non è tutto così rose e fiori, perché tutto si svolge in un paese dove c'è una dittatura di un solo partito, in cui gli oppositori ovviamente vengono fatti sparire, e c'è il controllo sui libri. Urca, accidenti, lo consigliamo per? per tutti quelli che amano i fumetti, le graphic novel che hanno un certo spessore. Molto, molto bene. Allora, invece chi volesse divertirsi? Guarda, io l'ho già consigliato nel Sabato del Villaggio, ma lo riconsiglio perché se non l'avete ancora messo in valigia, dovete farlo. Si intitola Dente per Dente, l'ha scritto Francesco Muzzopappa, 2Z e 2P, Fazzi Editore. Marta, è una commedia con cui io mi sono divertita tantissimo. È sull'arte della vendetta. Il protagonista è un trentenne, Leonardo, che lavora al MUCO. Che sarebbe il Museo d'Arte Contemporanea Verese, chiaramente inventato. Lui è fidanzato con una ragazza che si chiama Andrea, molto cattolica, molto osservante, tant'è vero che lei non fa sesso finché non lo fa con un altro, nel senso che lei, vabbè, da ragazzina era stata piuttosto promiscua. Poi quando incontra Leonardo dice: no, assolutamente, io voglio arrivare più o meno casta al matrimonio. E in realtà poi lo tradisce. Allora che cosa fa Leonardo? Decide di vendicarsi infrangendo tutti i 10 comandamenti metodicamente, uno per uno. Guarda, Francesco Muzzopappa ha una scrittura veramente ironica, brillante, divertente, mai banale. Ne avevamo già parlato, me l'ero già segnato, sì, per divertirsi. D'estate sempre tanti appassionati di thriller. Gli appassionati di thriller cosa mettono in valigia? Guarda, il thrillerone dell'estate, uno dei thrilleroni dell'estate, è questo nuovo di Jeffrey Deaver, che è molto amato appunto da chi ama questo genere. Si intitola Il Valzer dell'Impiccato, pubblicato da Rizzoli. Tra l'altro, una curiosità, perché si tratta della prima indagine italiana dei personaggi seriali di Jeffrey Deaver, che sono Lincoln Rhyme e Amelia Sachs. Lincoln Rhyme era già comparso nel Collezionista di ossa, è un criminologo di fama mondiale, è diventato tetraplegico dopo un incidente. C'è questa poliziotta Amelia che lo aiuta nelle indagini, in realtà poi diventano anche compagni di vita. Dicevo, la prima indagine italiana perché devono indagare su quello che loro definiscono il compositore. È un uomo che rapisce e tortura le sue vittime. L'indagine parte da New York e continua a Napoli. Che bello, mi piace moltissimo. Io non sono una grande appassionata di thriller perché mi spaventano un po', però mi incuriosisce. No, leggo una categoria alla quale appartengo: per le donne che amano troppo. Per noi donne che amiamo troppo, già quelle rido. Che amano troppo e sono pentite, o quelle che amano troppo e vogliono perseverare? Io non lo so, devo decidere. Ho dato questa categoria al libro Ti meriti un amore di Alessandra Piano, pubblicato da Cairo. Allora, le protagoniste sono due donne, Cinzia ed Emma, che erano amiche dai tempi dell'università, poi si ritrovano, diciamo, da grandi, da adulte. Cinzia incontra un uomo che le fa perdere letteralmente la testa, insomma, storia di grande passione. Emma, che vive ancora con i genitori, purtroppo, si innamora di un ragazzo che però a un certo punto scappa con i suoi soldi. No! Il punto è, donne che amano troppo, fanno bene o fanno male? Non lo so, immagino che sia necessario leggere il libro per capirlo. Beh, ognuno poi ci trae la sua conclusione, insomma, questa è fiction, però insomma dà spunti di riflessione per la propria realtà. Ok, basta che poi uno, dopo averlo letto, sia sorridente, che non abbia troppi pensieri negativi per la testa. Ma scherzi. Pensa che ho un'amica che ogni volta che va al cinema prima mi chiama e mi chiede se finisce bene, perché se finisce male non va a vedere il film. Io dico sempre, quando entro nel cinema, alla fine lui muore, indipendentemente da chi siano i protagonisti. Okay. Qualche volta ovviamente ci azzecco e quindi tutti mi dicono: hai fatto spoiler, ma io lo dico così, a prescindere. Alla fine lui muore. Ok, è stato il maggiordomo. Vabbè. Allora. Beh, ma anche questa categoria è divertentissima, per uomini âgé che non rinunciano alle passioni carnali. Cari amici di Radio 24, ultra 65enni, ultra 70enni, questo è il libro che fa per voi. In realtà fa bene a tutti, insomma, è veramente un grande libro. 1-0 di Hanif Qureshi, pubblicato da Bompiani. È un thriller erotico con una punta di umorismo nero. Anche di questo ti avevo già parlato nel Sabato del Villaggio, ma secondo me vale la pena metterlo in valigia. È la storia di un famoso regista che ha superato gli 80 anni, si chiama Valdo ed è costretto sulla sedia a rotelle. Lui però appunto è ancora un uomo pieno di passione carnale e inizia a sospettare che la moglie, decisamente più giovane di lui, abbia intrecciato una relazione con un giornalista, Eddie, che passa molto tempo dentro casa loro. Allora che cosa fa Valdo? Cioè, lui ascolta attraverso le pareti i rumori che arrivano dalle altre stanze, capisce che sua moglie sta facendo sesso con quest'altro uomo e si trasforma lentamente in detective. Inizia a raccogliere indizi, prove sul tradimento, ma soprattutto medita la vendetta. Accidenti. Allora, hai detto uomini âgés, donne âgées, mi viene in mente, ne abbiamo appena parlato con Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Le nostre anime di notte, Kentaroof. Il film, lo abbiamo sentito, arriverà a Venezia con Robert Redford e Jane Fonda, premio alla carriera. Quindi, insomma... Me la stai dando tu questa notizia? Perché io, sai, rimango sempre alla filosofia, quindi... chi legge libri sa le cose prima, però io conosco il libro. E quindi per quelli che lo vedranno a Venezia, insomma, magari prepararsi con la lettura. Preparatevi, leggetelo, non è neanche tanto lungo, è bellissimo. Sono due anziani che a un certo punto si incontrano, sono due vicini di casa e per tenerezza decidono di farsi compagnia, cioè di condividere il letto, ma non c'è niente di sessuale, è proprio una ricerca dell'amore, dell'affetto fisico che dopo una certa età manca, ed è veramente un capolavoro. Invece per chi pubblicato amasse... da NN in Italia, non l'abbiamo certo, detto. Certo, per chi amasse le biografie, ci sono tanti lettori di biografie. Sì, le biografie in genere sono dei grandi tomi, quindi vanno bene per l'estate. Grandi vite, grandi tomi. E questo è un grande tomo, Isabella e Lucrezia, le due cognate, scritto da Alessandra Necci, pubblicato da Marsilio. Alessandra Necci scrive spesso biografie storiche. Le protagoniste sono appunto queste due donne famosissime del Rinascimento italiano, Isabella d'Este, marchese di Mantova, e Lucrezia Borgia, Savassandir, duchessa di Ferrara e tante altre cose, che fra loro sono cognate, insomma due donne di potere e anche rivoluzionarie. Loro avevano anche, dettavano anche la moda di quei tempi, proprio la moda nel vestire, nell'atteggiarsi, quindi insomma due donne particolari, Isabella e Lucrezia. Mi incuriosisce molto. L'ultimo consiglio per bambini? Aspetta, leggo. Per bambini intellettuali hai scritto. Sì, l'ho scritto così per divertirmi, perché è un libro particolare. Si intitola Shakespeare in versi. L'ha scritto Roberto Piumini, che è uno dei, come dire, dei punti di riferimento per la letteratura dell'infanzia, pubblicato da Mondadori. Che cosa ha fatto Piumini? Ha riscritto tre opere di Shakespeare, sempre in versi, ma in modo comprensibile per più piccoli, li ha anche ridotte naturalmente, e sono Romeo e Giulietta, Sogno di una notte di mezza estate, Pene d'amor perdute. Insomma, anche i bambini più piccoli possono avvicinarsi al grande Shakespeare senza avere paura. Età? Guarda, io direi dagli 8-9 in su. Molto, molto bene. Alessandra, io concluderei dando invece tutte le coordinate del Cacciatore di Libri. In questo periodo è difficile, Marta, perché imperversa il Cacciatore di Libri. Giustamente, mi sto perseguitando. Il sabato, come sempre, alle 6.30 e alle 22. La domenica, con un'altra puntata, alle 16.15 e alle 20.45. Ma anche dal lunedì al venerdì, con i consigli di lettura flash alle 13.10. E comunque, se vi perdete qualcosa, c'è sempre il podcast su radio24.it. E se non avete preso appunti sui titoli che vi abbiamo citato ora al Sabato del Villaggio, potete ritrovarli nella pagina Facebook Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24. Fantastico, Alessandra, buona estate, buone vacanze, anche buone letture, e noi ci ritroviamo allora a settembre. Lo sto dicendo, ci saranno tante novità che riguardano anche il nostro sabato, e mi piacerebbe ogni tanto anche parlare di libri con Alessandra Tedesco. Sei d'accordo? Evviva, sono d'accordissimo, figurati, mi stai invitando a nozze. Ci ritroviamo presto allora, ciao a tutti. Noi buona estate. Tra poco ci ritroviamo con altre pagine del nostro Sabato del Villaggio speciale. Il Sabato del Villaggio. Chi ha visto Carmencita? Non lo so, forse è partita. Barba? Forse è andata dalla zia. Sarà in cerca d'allegria. Sarà sola o in compagnia? Dov'è la donna? Ehi, ragazzi, mi puzzate! Cosa sono queste occhiate? È una banda di falsari! Per vietarmi di parlare, mi volevano ammazzare! Caballero, che pistola! Chi è con lei non è mai sola. Pambina, sei già mia. Chiudi il gas e vieni via. Ma chi l'ha vista? La mia donna chi l'ha vista? Ah, Io ve l'avevo promesso, perché sono una grande fan, perché secondo me è un punto fondamentale della cultura italiana e un personaggio che andrebbe festeggiato tutti i giorni, perché le sue opere fanno parte della nostra cultura di tutti i giorni. Ormai siamo talmente abituati a vedere alcune cose che ha inventato, oppure a vivere delle atmosfere che in realtà ha creato lui, che è importante ricordare una figura davvero straordinaria. Allora, ne avevamo parlato in una puntata speciale che avevamo mandato in onda da Trento, dal Festival dell'Economia di Trento. Eravamo andati in onda in diretta da lì con il Sabato del Villaggio. Avevamo anticipato che sarebbe arrivata al MART di Rovereto una splendida mostra su tutti gli ismi di Armando Testa. E siccome questa mostra è iniziata, io non ci sono ancora andata perché sono sempre stata in radio, ma prometto che ci andrò prestissimo, perché sono veramente veramente curiosa e veramente affascinata da questo grandissimo uomo. Tanto è fino al 15 ottobre, quindi dovete cominciare a organizzare la trasferta appunto a Rovereto, anche perché il MART è bellissimo. Tutti gli ismi di Armando Testa, una figura incredibile, una figura straordinaria della quale ho il piacere e l'onore di parlare con una persona che l'ha conosciuto estremamente bene. Io do il benvenuto al nostro Sabato del Villaggio a Gemma De Angelis Testa. Buongiorno signora Testa. Buongiorno, grazie per aver pensato a me, grazie per questa intervista. Allora, io sono davvero onorata perché possiamo finalmente festeggiare, insomma, è un compleanno importante per Armando Testa, perché le sue opere sono talmente sempre tra noi che è lui stesso tra noi. Il centenario della nascita. Sì, sì, sì, è il centenario della nascita, ma diciamo che ogni anno comunque senza questa data importante viene festeggiato, pensato e festeggiato. Armando si è fatto amare moltissimo dal pubblico e da tutti, quindi ha lasciato veramente allegria intorno a sé, oltre averci così tramandato tanta fantasia e tanta creatività. Signora Testa, lei ha co-curato la mostra insieme al direttore del MART, Gianfranco Maraniello. Com'è possibile riuscire a condensare in una mostra? Immagino che si debbano fare delle scelte molto importanti. Sì, sono state sì, abbiamo dovuto sacrificare alcune opere, però abbiamo raggiunto l'obiettivo, forse quello che voleva Armando, essere riconosciuto, come aveva definito Gillo Dofres, visualizzatore globale, ma era rimasta, questa parola era rimasta lì. Diciamo che Armando è compreso di più oggi. Ci è voluto veramente il tempo per capire la contemporaneità di tanti suoi lavori, perché non parliamo solo di lavori pubblicitari, ma tutta una ricerca creativa che viene fuori. Quella mostra, la mostra al MART è veramente un monumento alla creatività. Già dal momento che si entra sei avvolto dai manifesti, quelli più pittorici dei primi anni, fino alla sua ricerca artistica. Bambini e bambini, ecco a voi Pippo che eseguirà il suo numero di maggior successo, la papera. Grazie bambini, ed ora un'informazione per la mamma. Questo bimbo ha 8 giorni, è la natura che lo guida per favorire il corretto sviluppo delle articolazioni dell'anca. Segui con fiducia la natura. Mettigli fin dai primi giorni un pannolino giusto per favorire la posizione naturale. Intanto noi ascoltiamo qualche pubblicità, qualche carosello, le musiche che ci hanno tenuto compagnia se eravamo piccoli all'epoca, o che comunque abbiamo avuto anche il piacere di riascoltare in quest'anno, che è importante anche per Carosello, che ha festeggiato il suo 60° compleanno. Signora Testa, il Novecento è stato il secolo degli ismi, ci sono stati tanti ismi nell'arte. Qui stiamo parlando di pubblicità che si è fatta arte, arte che si è fatta pubblicità. Sì, sicuramente Armando non sentiva minimamente la differenza, nato pittore e poi niente, la vita l'ha portato comunque, nato pittore avrebbe voluto, anzi era un sogno nel cassetto, gli sarebbe piaciuto fare l'architetto, però insomma i casi della vita l'hanno portato poi ad andare a lavorare giovanissimo e quindi diciamo che poi la pubblicità la avvolto là, perché hai subito successo, sai subito se una cosa funziona o meno rispetto a un artista, però l'arte è stata sempre il suo punto di riferimento e diciamo che ha innervato la pubblicità. Lui si sa è colui che ha cambiato la pubblicità in Italia, e perché l'arte l'ha sempre tenuto presente. Lui non sentiva differenza tra quando facevo le sue ricerche, mi chiedeva un mio parere, io ho lavorato accanto a lui per 22 anni e quando gli chiedevo la destinazione lui mi rispondeva: guarda il segno, non ha importanza che cosa sarà, una copertina, una campagna pubblicitaria, guarda il segno, guarda la forma, che poi il contenuto verrà insomma da solo. E quindi lui faceva delle volte, disegnava, come è successo per Punto e Mess, che è un disegno che aveva nel cassetto fin dagli anni 50, e poi gli è venuta questa intuizione incredibile di proporlo a Carpano per il Punto e Mess, ed è un lavoro concettuale. Come dice Jeffrey Deitch in un suo testo, il grande critico americano, che ha scritto un testo bellissimo secondo me sul catalogo poi di un'altra mostra, lui dice che Armando è andato a pari passo con certi movimenti ma molto spesso li ha anticipati. Infatti molte cose come la lampadina limone realizzata da Armando 15 anni prima di altre, tutta la sua ricerca sul cibo, che non sono pubblicità ma sono sue ricerche artistiche, e si vedono in questa mostra, finalmente si vedono che sono una sua ricerca personale, non studiate per la pubblicità. I remember Torino, remember my love, kiss me al Valentino, in un piccolo bar, mi dicesti you love me, io risposi a te yes, mi baciasti forte forte, poi mi offristi un punto e mess. Appuntamento, yes, appuntamento di Punto e Mess. Sotto il ciel di Torino. Ecco, se qualcuno sta cominciando a pensare di fare una gita appunto al Mart, che cosa si vede in questa mostra? Lei cosa ha scelto per rappresentare la vita, la carriera, l'arte di Armando Testa? Forse il suo aspetto anche giocoso, l'immagine che rappresenta la mostra, la campagna della mostra e la poltrona di prosciutto, che è stato è stata un'immagine molto apprezzata in tutto il mondo, l'AIFA gli aveva dedicato nel 78 addirittura una pagina intera. Io direi quell'immagine lì, di lui sulla poltrona, perché lui voleva sentire la materia, voleva toccarlo, voleva essere avvolto da questo prosciutto. Che meraviglia, che meraviglia. E quindi è quell'immagine sua giocosa di che salta su questa poltrona. Ci ha veramente costruito tanto immaginario, più di quanto noi non ci rendiamo conto, Armando Testa. Ancora bambini che sono nati, figli di gente che non ha nemmeno visto Carosello, ha delle immagini di quell'epoca, ma anche dopo Carosello l'attività di Armando Testa è proseguita per decenni. Sì, se guardiamo Pippo, questo rinoceronte, questo ippopotamo, tutto blu, è un'immagine senza tempo anche quella, cioè non è solo Punto e Mess, ci sono tante immagini che sono attuali ancora oggi, Caballero, Carmensita, li vediamo adesso come pure forme geometriche. I critici e i giovani, gli artisti che vengono a visitare la mia casa, a visitare la mostra di Armando, sentono molto, non vedono queste sculture come dei prodotti per quella data di ditta, ma li vedono come delle sculture. E quindi hanno il tempo, quello che diceva prima, c'è voluto un tempo per apprezzare, per capire i suoi lavori, dopo che diciamo che lui è stato il primo a sconfinare tra pittura, pubblicità, televisione, cinema, design, architettura, scrittura, perché lui ha scritto anche per un certo periodo sul Giornale dell'Arte, anzi per tutto il periodo da quando è nato poi il Giornale dell'Arte. E questo oggi i giovani artisti combinano moda, design, tutto assieme. Lui è stato un pioniere proprio della creatività italiana. Che meraviglia. Allora, l'appuntamento è al Mart di Rovereto. C'è tempo fino a ottobre, quindi cominciate a organizzare la gita in questo mese di agosto, ma anche insomma per tutto l'inizio dell'autunno, perché davvero questa mostra dedicata a tutti gli ismi di Armando Testa al Mart di Rovereto davvero è da non perdere. Io non la perderò sicuramente. Grazie alla signora Gemma De Angelis Testa. Buona giornata, a presto. Grazie a voi, buona giornata, arrivederci. Attenzione, attenzione. Il nostro astromicrofono si è posato sul pianeta Papalla, distante dalla Terra 100.000 anni luce. L'eccezionale servizio in astrovisione è offerto dalla Filco Italiana. Qui Papalla, il pianeta del futuro. A Papalla il progresso e la scienza sono avanti di 2000 anni rispetto alla Terra. Un papà, qui siamo a Papalla e non si balla che il panis. Un papà. Gran festa oggi a Papalla. I papallesi sono gente allegra. Ogni pretesto è buono per cantare e ballare. Scusi, sono un microfono terrestre. Permette una domanda. Cosa festeggiate oggi? Oh, festeggiamo la mietitura degli spacchetti. Fenga, fenga, fetere! Là tutti i filari di maccheroni che crescono di 2 centimetri al secondo. Meraviglioso! Sa che sulla terra coltiviamo ancora il grano? Hai sentito, Luigi? Sono ancora al grano! Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Il sabato del villaggio. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. Opi è un comune di appena 420 abitanti. Una piccola comunità dove tutti si conoscono. È nel sud dell'Abruzzo, a circa 160 chilometri da Roma e 100 dall'Aquila. Il borgo medievale è circondato da una corona di montagne, sopra un costone di roccia alto 1200 metri. In un contesto naturale davvero mozzafiato. Le tante sorgenti carsiche della zona danno vita a piccoli torrenti e fiumiciattoli. I monti circostanti, boscosi e accidentati, sono abitati dalle tante specie animali del parco. Opi è un luogo incantato, dove la natura ha profuso tutte le sue meraviglie con generosità. E come sempre a quest'ora al sabato del villaggio, lo avete capito dall'estratto dell'audioguida della Touring Club che trovate come sempre sul nostro sito, sul sito di Radio 24, a quest'ora, dicevamo, è il momento di partire o perlomeno di sognare, di immaginare un viaggio. Lo facciamo come sempre con Anna Rita D'Ambrosio. Ciao Anna Rita. Ciao a tutti. Allora, dove ci porti? Insomma, lo abbiamo sentito, ma dove ci porti in particolare questo fine settimana? Beh, è un incanto. Il posto dove vi porto questa settimana è davvero un piccolo incanto, perché pensate che gli abitanti sono poco più di 400. Adesso dal nostro ospite ci facciamo dire quanti sono per la precisione, perché ho letto 408, 420, ma insomma 500 non arrivano, ecco. Favoloso! È un posto straordinario che si trova in Abruzzo, ma è facilmente raggiungibile perché non è molto lontano né da Roma né da Napoli. Si chiama Opi ed ha una Proloco attivissima che organizza tantissime iniziative, soprattutto per il prossimo agosto. Noi abbiamo un ospite e lo ringraziamo, col quale ci facciamo raccontare un po' i dettagli di Opi, che è Carlo Di Rocco, proprio della Proloco. Salve! Buongiorno. Buongiorno, che meraviglia intanto. Perché... Quanti sono gli abitanti, la prima curiosità? Il borgo medievale di Opi conta 420 abitanti. Ah, ecco. 420, quindi sono cresciuti rispetto ai 408, sono molti in ultimi più. Periodi. E quindi poi d'estate diventano quanti di più? Tantissimi. Ovviamente d'estate diventano migliaia, perché il paese offre un'ampia possibilità di alloggio, dalle case vacanza più semplici a B&B, anche agli hotel e agli alberghi. Quindi d'estate raggiungiamo dei numeri molto più elevati. Di Rocco, tra l'altro, è facilmente raggiungibile Opi? Sì, è abbastanza raggiungibile in modo semplice, sia per chi proviene da Roma, che si può raggiungere dalle due arterie o dalla 24, oppure passando attraverso la 1, uscendo a Ferentino Frosinone e raggiungendo il parco. Chi viene da Napoli, lo stesso, utilizzando l'autostrada, uscendo a Cassino, ma in due ore da Roma e due ore da Napoli e due ore da Pescara, si raggiunge il parco d'Abruzzo e quindi anche il nostro borgo medievale di Opi. Ecco, un borgo assolutamente straordinario. Nella nostra radioguida, che come sempre io dico è già l'inizio del viaggio, voi la scaricate, la ascoltate e già siete un po' ad Opi. Si parla anche dell'origine particolare del nome di Opi. E si parla poi soprattutto di questa Proloco attiva per le iniziative che riguardano anche il cibo. Vogliamo parlare un po' delle iniziative di questo 2017? Allora, le iniziative del 2017 sono numerose, sono numerosissime. Abbiamo iniziato già dal mese di giugno con la festa che si svolge del Corpus Domini, in cui tutto il centro storico viene rivestito e invaso da tappeti floreali, appunto a richiamare un po' le infiorate nate in altri posti, ma noi le abbiamo riviste, e anche la nostra giornata del Corpus Domini verte in questo, in abbellire tutto il centro storico con tappeti floreali. Abbiamo avuto le feste patronali, le festività patronali 24 e 25 giugno di San Giovanni e San Vincenzo Ferreri. Abbiamo ospitato un passaggio della Gran Fondo, quindi una gara molto interessante che copre tutti i comuni del parco, e siamo arrivati così a luglio. Nel mese di luglio abbiamo organizzato un evento che ormai è alla terza edizione, che si chiama Opi in Mostra. Praticamente contemporaneamente all'interno del centro storico vengono allestite numerosissime mostre. L'anno scorso ne abbiamo avute 25, se non erro, quest'anno ne abbiamo qualcuna di meno, ma sono tantissime, tutte belle da visitare e da vedere. E poi ad agosto è un po' il clou? Agosto è un po' il clou, è un po' il fulcro di tutta l'attività, e abbiamo tantissime manifestazioni organizzate per i più piccoli, per gli anziani, per la famiglia, per il palato, un po'. Ecco, per il palato ho sentito. Per il palato ci piace sempre approfondire. Per il palato io mi sono documentata, gnocchi mi pare. Allora, per il palato organizziamo, sì certo, la Sagra degli Gnocchi, arrivata alla 34esima edizione quest'anno. È una sagra un po' speciale che richiama tantissimi turisti e curiosi che visitano nel periodo del Ferragosto, il sabato dopo il Ferragosto, il parco d'Abruzzo. Si cucinano gnocchi preparati dalle sapienti mani delle massaie e delle signore di Opi. Partecipa tutto il paese, le massaie ammassano gli gnocchi, i bambini preparano tutti gli allestimenti, una grandissima festa che dura tutta la notte, 19 agosto a partire dalle ore 19 per tutta la notte. Quindi una cosa straordinaria, cioè dopo Ferragosto molto bella. È un appuntamento al quale, Marta, sicuramente non si può mancare. Però è solo uno, come dicevi Carlo, degli appuntamenti che vanno avanti poi fino agli inizi di settembre. Fino agli inizi di settembre, quindi dal primo agosto fino alla fine del mese ci sono tantissimi appuntamenti. C'è una rassegna di folcloristica di cori, appunto questa si farà il 6 agosto, si chiama Open Canto. Durante la notte del 6 agosto tanti cori folcloristici canteranno e si snoderanno per le vie del centro storico. Ci sarà una serata dedicata ai bambini, l'11 agosto si chiama Serata delle Favole a cura dei più piccoli. Le piazzette e i vicoli saranno animati da bambini che racconteranno le favole, le storie più belle, quindi si trasformerà in un palcoscenico di favole. Il 12 agosto ci sarà una festa degli alpini che si farà nella splendida Valle Fondillo, che è il cuore più bello del parco d'Abruzzo. 13 agosto, Trasuta e Sposa. Questo è un musical che è nato nell'idea nostra di raffigurare il rito del matrimonio. Viene raffigurata questa storia antica da tutti gli abitanti del paese, che per una notte saranno attori, indosseranno abiti antichi e racconteranno il matrimonio antico. Quindi diciamo che anche per gli stessi 420 abitanti di Opi il periodo estivo è proprio il clou, cioè c'è una partecipazione attiva totale. Sì, c'è una buona partecipazione, sono tutti impegnati, chi fa una cosa, chi fa un'altra, come in un grande mosaico dove ogni pezzettino è al proprio posto per creare una bella immagine, dare un'accoglienza il più possibile bella a tutti i turisti che arrivano a visitare il nostro piccolo centro borgo medievale. Carlo, noi ti ringraziamo. Marta, direi che io vale sono la già pena, convinta. Sì, sì, sono già convinta. Stavo poi curiosando la vostra pagina di Facebook. Vedo un sacco di idee molto carine anche per dei sentieri, delle gite, delle escursioni. Quindi, secondo me, una gita a Opi è un'ottima idea. Davvero grazie. Grazie a voi, vi aspettiamo a Opi. Che meraviglia, grazie, abbiamo scoperto un altro borgo dei borghi più belli d'Italia, sono molto molto contenta. Anna Rita, dunque, per informarci, per scappare a Opi, dobbiamo assolutamente scaricare la nostra radioguida, audioguida sul sito di Radio 24 e sul sito del Touring Club, ci sono una serie di dettagli e di segnalazioni. E quindi, come dico sempre, la guida è un po' l'inizio del viaggio, perché quando si inizia a conoscere delle informazioni sulla destinazione è un po' l'avvio del nostro viaggio. Grazie Narita, io vado a preparare i bagagli, ciao! Ciao, alla prossima! Ed è tutto per questo appuntamento speciale con il Sabato del Villaggio. Siamo stati insieme due ore per salutarci prima della pausa estiva. Abbiamo parlato di un sacco di argomenti. Ovviamente potete ritrovare questa puntata, come tutte le altre puntate del Sabato del Villaggio, nei nostri podcast, nei podcast di Radio 24. È semplicissimo recuperarli tramite il sito. Ho solo il tempo dei ringraziamenti. Oggi in regia è stato con noi Filippo Aureggi. Mi ha dato una mano per confezionare la trasmissione la bravissima Valentina Ternullo, grazie Valentina, grazie sempre anche a Cristian Goldoni che è stato al mio fianco per tutte queste puntate del Sabato del Villaggio, per quest'altra edizione. Ci ritroviamo nel palinsesto di Radio 24 in questi giorni con tutti gli appuntamenti, con 140 caratteri, con Voci in Scena, insomma per tutto il mese di agosto continueremo a sentirci tutti i giorni. Ricordatevi anche dei miei social, chiocciola Marta Cagnola, sia su Instagram che su Twitter, potete sempre tenervi in contatto con me. Con gli appuntamenti del sabato e con un sacco di novità ci ritroviamo poi a settembre e vedrete che ne avremo ancora tante da ascoltare. Per il momento un buon agosto a tutti e ci ritroviamo prestissimo.